Signore e signori, si da capisciute ciò che attenga niente a sta a capo. Iei so forte, bed e appetitosa, e so la ciò farezza di mamma e tata, e per cambà faccio il mestiere delle pascià. Come? Non ci credite? Mannaggio vol David, io mi mangio come dico, sta da sedì, pensare a me. Musica, maestro.